Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione, puntata natalizia, quella odierna che chiude simbolicamente un ciclo di ben 6 anni di trasmissione. Siamo partiti nel lontano gennaio 2010 per parlarvi di un fenomeno allora abbastanza sotto traccia, quello della nuova emigrazione professionale, i cui numeri sarebbero poi esplosi negli anni successivi. Ebbene, dal prossimo mese Giovani Talenti affronta il maggiore restyling della sua storia, introducendo nuove tipologie di racconti. Non solo vi parleremo di under 40 che fanno le valigie e cercano opportunità professionali oltre confine, ma anche di professionisti che tornano in Italia, studenti di scuole superiori e università che vanno all'estero e di stranieri che, perché no, scelgono l'Italia per il loro approdo professionale. Non perderemo di vista ovviamente il nostro focus principale, gli italiani all'estero, ma introdurremo nuove categorie di racconto per restituirvi la complessità di un mondo i cui confini sono sempre più labili. Un mondo globalizzato, ricco di opportunità. Torneremo a parlarvi di questa svolta di Giovani Talenti a gennaio. Ora però vi lasciamo alla nostra puntata natalizia che avrà come sfondo la città per antonomasia del Natale, New York. Giovani Talenti. La frase della settimana è copyright di Papa Francesco. Studiare e lavorare in un paese diverso dal proprio è un'opportunità di arricchimento contro paure, chiusure, muri e contro la globalizzazione dell'indifferenza. La fuga di cervelli, invece, è dolorosa. Per Francesco, la società è chiamata a offrire alle nuove generazioni valide opportunità occupazionali, evitando la cosiddetta fuga dei cervelli. Che qualcuno scelga liberamente di andare a specializzarsi e a lavorare all'estero è cosa buona e feconda. Invece è doloroso che giovani preparati siano indotti ad abbandonare il proprio paese perché mancano adeguate possibilità di inserimento. Più chiaro di così. A proposito di giovani che vanno all'estero, mi sono espresso male e mi scuso con tutti. Quello che è successo veramente mi fa stare male. So di avere sbagliato. Io non ho mai pensato che sia un bene per l'Italia il fatto che ci siano dei giovani che se ne vanno. Se 100.000 giovani se ne sono andati dall'Italia, non è che qui sono rimasti 60 milioni di pistola. Conosco gente che è andata via e che è bene che stia dove è andata, perché sicuramente questo paese non soffrirà a non averli più fra i piedi. Però niente male la sensibilità dimostrata dal ministro del lavoro Giuliano Poletti lunedì. Poletti, come avete ascoltato poco fa, si è poi scusato dicendo di essersi espresso male. E se invece avesse detto quello che realmente pensa e che al di là delle dichiarazioni di prammatica ci sia una classe dirigente che tira un sospiro di sollievo nell'avere una simile valvola di sfogo con decine di migliaia di potenziali disoccupati che ogni anno si levano dai piedi evitando di pesare sul numero dei senza lavoro e delle prestazioni sociali? Che ne pensate? Mandateci i vostri commenti su questa gaffe a giovanitalenti@radio24.it. Vogliamo sapere la vostra e lo diremo in onda. E poi c'è chi con le mani in mano non ci resta proprio e decide di tentare la propria fortuna nella città delle città, come ci insegna la storia di oggi. Se uno è pronto ad affrontare i sacrifici, questa città non ha paragoni. L'esperienza di New York ti aiuta per ogni cosa che vorrai intraprendere nel tuo futuro. Nicole Bonazzoli, 32 anni, è una real estate agent al lavoro a New York. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. Una buona notizia in apertura di questa edizione natalizia. Dopo anni di intensa crescita, nel 2015 si registra una lieve diminuzione del numero dei net, i giovani inattivi. Lo rivela l'Istat nel rapporto sul benessere eco e sostenibile, spiegando come i net in Italia siano passati dal 26% del 2014 al 25% del 2015. Il divario territoriale rimane però ampio, sottolinea l'Istat, e non accenna a ridursi. Solo l'81% degli studenti residenti in Italia crede che troverà lavoro nei prossimi 5 anni, il 10% in meno dello scorso anno e il 15% in meno di quanto affermano gli studenti italiani che vivono all'estero. L'85% degli studenti ritiene che l'estero offra maggiori opportunità di lavoro rispetto alla penisola perché la meritocrazia è più diffusa e il mercato del lavoro più aperto. Lo rivela una ricerca dell'osservatorio L'Oreal che precisa: uno studente italiano su 3 dichiara di voler trascorrere un periodo oltre confine. Il dato è in crescita rispetto allo scorso anno. La giunta regionale pugliese ha approvato il bando tirocini in mobilità transnazionale. La misura intende dare l'opportunità agli studenti pugliesi iscritti al quarto e quinto anno presso un istituto di istruzione secondaria, ma anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale e delle fondazioni degli istituti tecnici superiori, di effettuare tirocini formativi presso aziende in un altro paese dell'Unione Europea. Ancora buone notizie, la Società Americana di Chimica ha conferito al ricercatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia Marco De Vivo il premio ACS Comp OpenAI Outstanding Junior Faculty Award, dedicato ai giovani ricercatori, per aver scoperto la dinamica che guida l'assemblaggio dei vari mattoncini di DNA. È la prima volta che un ricercatore di un'istituzione italiana riceve questo premio. L'Università Ca' Foscari di Venezia cerca brillanti neolaureati provenienti dall'estero da inserire in due percorsi di dottorato di ricerca in economia finanziati con borse Marie Curie Innovative Training Network. Il percorso prevede un seguito negli Atenei Partner a Parigi ed Amsterdam. Maggiori informazioni su excide-itn.eu. Candidature entro il 15 gennaio. Siete alla ricerca di fondi per studiare all'estero? La Commissione Europea ha creato una piattaforma online dove poter visionare tutte le possibilità di finanziamenti sotto forma di borse di studio. Tutte le info sul sito della EFG European Funding Guide. Presentata ai migliori davvero, piattaforma digitale peer-to-peer dove i neoassunti di importanti aziende di tutti i settori mettono la propria esperienza a disposizione di studenti e neolaureati condividendo informazioni e dando consigli sulle soft skills fondamentali per avvicinarsi al mondo del lavoro. Info su imigliori-davvero.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta come regalo di Natale nella grande mela. Tra atmosfera delle feste e opportunità vi racconteremo una New York davvero inedita. Nome: Nicole detta Miki. Cognome: Bonazzoli. Età: 32. Città di origine: Milano. Studi: recitazione all'Actor Studio di New York. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2003. Per andare dove? New York. Perché? Inizialmente per un anno sabbatico e poi ho deciso di studiare qui. Quale lavoro svolge attualmente? Real estate, immobiliare. Dove? New York, Miami, e collaboro molto con l'Italia. Tornerai? Bella domanda, me lo chiedo da 13 anni. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. New York è una metropoli difficile e spietata dove non ti regala niente nessuno, ma che offre prima o poi un'occasione a tutti e se vali puoi coglierla. Nicole, partiamo da qui, da questa tua frase che ci introduce a una puntata dal messaggio positivo che fa da sfondo a questo 24 dicembre. New York è la città, insomma, che può dare un'occasione come l'ha data a te e ad Eden, la cui storia ascolteremo tra poco. E allora la mia domanda è solo apparentemente banale: meglio andare a New York con un progetto preciso e inseguirlo in modo determinato o essere pronti a cogliere occasioni completamente inaspettate? Sicuramente devi avere un progetto ben preciso ed essere pronto a cogliere le occasioni se si presentano, anche se lontano dal progetto originale. Serve determinazione, tanta forza di volontà e pazienza. Tu a New York arrivi a soli 18 anni, appena finita la maturità. Perché questa scelta così netta, un taglio così deciso con l'Italia? In verità dovevo studiare economia in Bocconi, ma ho cambiato la mia traiettoria e ho deciso di rincorrere il mio sogno, venire nella grande mela a studiare recitazione. E infatti tu volevi diventare attrice per 3 anni frequenti l'Actor's Studio. È stato difficile entrarci? A parte convincere i miei genitori, beh, direi di sì. L'anno in cui sono stata ammessa prendevano solo 50 studenti da tutto il mondo. Esperienza difficile e selettiva, la definisci giustamente, ma affascinante ed entusiasmante. La consiglieresti ad aspiranti attori o attrici in erba? Assolutamente. Sono probabilmente stati gli anni più belli della mia vita, per adesso. Dormivo 5 ore a notte e durante il giorno avevo un intenso programma di lezioni partendo da Shakespeare, Tip Tap, Acting for Film and TV, edizione e anche Stage Combat. La frequentazione dell'Actor Studio mi è servita a ottenere più sicurezza in me stessa, fortificare la mia personalità, decifrare la psicologia della gente e imparare a convincere la persona che ti sta di fronte. Facciamo bene attenzione a questa ultima frase perché questi concetti poi torneranno a breve. Però la domanda è un'altra: perché poi non hai più fatto l'attrice? Avevo capito che nonostante fosse il mio sogno, non era per me correre alle audizioni. E il vero problema è che purtroppo, come ben sai, devi sempre aspettare la decisione di qualcun altro. Quindi ho seguito il mio istinto e ho colto un'occasione inaspettata. Ed è successo quasi per caso che sono diventata agente immobiliare, che non è uno scherzo perché in un paese come questo non si improvvisa, ricordi? E questo, Nicola, è anche il tema che fa da sfondo a questa puntata natalizia. È il caso, più o meno guidato, che si trasforma in opportunità in una città come la Grande Mela. La tua personale opportunità, come arriva? La verità è che amo le sfide, soprattutto con me stessa, e non mi sono mai tirata indietro a imparare una nuova lingua, un'arte marziale, un nuovo lavoro. Un giorno ho pensato: cos'è la prima cosa che vorrei fare appena metto un po' di soldi da parte? La mia risposta è comprare una casa tutta mia. E dato che ne volevo sapere di più, ho preso la licenza come agente immobiliare. Sei andata direttamente al sodo. E anche a livello di formazione, diventare broker non è semplice ed è stata una virata non da poco. Allora, cosa hai dovuto studiare? Ho dovuto prendere la licenza nello stato di New York e successivamente in quello della Florida, ma se posso essere onesta, la formazione la fai tutta sul campo, impari nel day by day con i successi e con gli errori. Come in molti lavori, effettivamente. Cosa significa, Nicole, essere broker a New York in termini di lavoro? Qual è la tua giornata tipo? Allora, invece di correre alle audizioni, oggi corro come broker tra un appuntamento e l'altro. La differenza è che prima mi dovevano scegliere per la mia recitazione e adesso mi scelgono per la mia persona, professionalità e fiducia che trasmette ai miei clienti come agente immobiliare. Diciamo che non ho una giornata tipo perché io e il mio team Columbus International siamo sempre disponibili 7 giorni su 7 e anche durante le feste. Mi alzo alle 6 del mattino combattendo con la sveglia, soprattutto d'inverno. Ho una brutta abitudine che appena mi sveglio inizio a controllare subito le mail. Vado a correre quando non ci sono la neve e i pinguini fuori. Sono in ufficio intorno alle 8:30. E la mia giornata si alterna tra appuntamenti, gestire il mio team. Insomma, non è facile, è abbastanza stressante, potremmo dire, con un collega. No, e poi a New York ce n'è sempre una, tra Fashion Week, West Open, Halloween, insomma, alla fine torno a casa come Cenerentola a mezzanotte. E con un collega hai messo in piedi nel frattempo una company specializzata anche nel mercato italiano, mettendo nel portfolio case e appartamenti del valore di $11 milioni, operate all'interno di Keller Williams, una delle più importanti agenzie immobiliari americane. Di strada, insomma, ne hai fatta. E ti chiedo però, l'Italia come la vedi come paese delle opportunità? Varrebbe la pena tornare? Allora, amo il mio lavoro e il mio sogno con il mio collega e amico da tanti anni Richard Tagliare è essere il team numero uno a New York. Per adesso torno in Italia per lavoro e per le vacanze, ma non è nei miei programmi ritornare definitivamente, ma ovviamente, come dico sempre, mai dire mai. Con te vorrei affrontare un paio di temi. Il primo riguarda i tuoi consigli pratici a giovani intraprendenti che pensano a New York quale meta di approdo. Quali sono le mosse imprescindibili non appena si mette piede in città? A New York si lavora spesso, anche nei weekend, soprattutto nel mio lavoro. L'impegno che ci si mette al massimo livello, la città è dispendiosa e c'è una feroce competizione, ma se uno è pronto ad affrontare i sacrifici, questa città non ha paragoni. L'esperienza di New York ti aiuta per ogni cosa che vorrai intraprendere nel tuo futuro e, come dico sempre, come cantava Frank Sinatra, if I can make it there, I'll make it anywhere, it's up to you, New York, New York. Però non c'è solo il lavoro, c'è anche la vita personale. È facile ambientarsi, ripartire da zero senza conoscere nessuno? Sì, diciamo che ho trovato tantissimi amici qui e una grande famiglia italiana che, come sappiamo, siamo ovunque, e quindi è come creare una famiglia in un altro posto. Allora, Nicole, domani è Natale, che atmosfera respiriamo in queste ore a New York? Beh, allora, quest'anno tutti si fanno gli auguri di Chrismukkah, non so se sai cos'è, che è l'unione della parola Christmas and Hanukkah, ed è la festa ebraica delle luci che quest'anno cade proprio il 24 di Natale. Gli addobbi e le luci di New York anche dopo 13 anni mi emozionano sempre, a parte il profumo di cannella imperverso in ogni negozio a cui sono purtroppo allergica, ma per tutti il pensiero è lo stesso: qui a New York, con un po' di fortuna e tanta determinazione, credo veramente che i sogni possano diventare realtà. Come vedi l'Italia all'estero? La nostra domanda è rito, Nicole, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Non mi permetto di esprimere perché non vivo lì da anni. L'unica mia percezione è che ormai si sta da sempre che in Italia c'è poca meritocrazia, i giovani dovrebbero essere più valorizzati per non andare all'estero e sono le conoscenze che contano. L'Italia rimane sempre nel mio cuore, so che sta attraversando un momento difficile, ma spero che ritorni a essere quel grande paese che è. Al contrario, negli Stati Uniti tutti possono diventare ciò che desiderano, ci vuole impegno, tanto impegno, le idee giuste e certamente una buona dose di fortuna, come sempre. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Qualcuno sa da dove viene questo proiettile? Perché è vero che a spararle è stato uno stronzo talebano, ma qualcuno gli ha dato il fucile. Valerio Mastandrea racconta storia di una pallottola, un giorno a Kabul. Chiama la sala operatoria, avvisali, ne abbiamo altri 3. E questo va in radiologia, questo va subito in sala. Il radiodocumentario dall'ospedale di emergency a Kabul, con le testimonianze degli operatori. Ti puoi abituare alle conseguenze, della guerra, ma non ti abituerai mai ad un'esplosione. Storia di una pallottola, un giorno a Kabul. Il web documentario su emergency.it. Il radio documentario lunedì 26 dicembre alle 16:30 su Radio 24. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Micol Bonazzoli, 32enne real estate agent a New York. Storia davvero particolare quella di Micol, approdata nella Grande Mela per fare l'attrice, poi le cose hanno preso una piega un po' diversa. Puntata forte sfondo natalizio, quella odierna, per raccontarvi come sia indispensabile osare sempre in grande e non smettere mai di seguire le proprie ambizioni. Lo facciamo con uno sfondo d'eccezione, la città americana per antonomasia. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. Ci raggiungerà in linea Eden Gebrselassie, manager per gli eventi marketing della catena televisiva ESPN. Buon pomeriggio Eden e buon Natale. Ciao, buon pomeriggio a voi e quasi buon Natale. Eden, anche tu sei a New York ormai da diversi anni, anche tu hai un percorso molto simile a quello di Micol, segnato dal caso in modo positivo. Nasce e cresce a Milano, dopo le superiori anche tu lasci l'Italia per gli Stati Uniti. Perché questa scelta e cosa vai a studiare oltreoceano? Allora, la mia scelta è un po' diversa da quella di Miki. Io, anche se sono nata e cresciuta a Milano, i miei genitori sono eritrei e quindi alla nascita non mi era stata data la cittadinanza italiana. E quindi diciamo che per 18 anni quasi non mi sono sentita italiana e per ironia non mi sono sentita italiana completamente fino a quando sono venuta a vivere qua in America a studiare. Questo ci fa anche riflettere su quanto sia necessario integrare maggiormente le persone che vengono a vivere qui in Italia, soprattutto i figli di queste persone come te Eden. Consigli, poiché sei stata lì a studiare una laurea negli Stati Uniti, quali sono i vantaggi o gli svantaggi? Ma per me è stata l'esperienza più bella della mia vita, perché sono stata in grado di poter mischiare tutto quello che ho imparato in Italia con comunque l'ambiente del campus universitario in America. Ho studiato in Virginia, che è conosciuta anche per avere le migliori università in America. Ho studiato relazioni internazionali con una milanese e un francese ed appunto ho conosciuto tantissime persone di tutto il mondo che erano molto interessate a conoscere me tanto quanto io loro di imparare da loro. Dopo la laurea ti trasferisci a New York. Anche per te gli inizi non sono facili, dovendo partire da zero, cominci come cameriera e poi pure per te il caso e un pizzico di coraggio ti cambiano la vita. Non so se in Italia quello che ti è capitato oltreoceano sarebbe anche vagamente immaginabile, ma ti chiedo di raccontare Eden come sei diventata coordinatrice delle pubbliche relazioni per il celebre magazine Rolling Stone. Raccontacelo. Sì, allora stavo proprio andando a lavorare al ristorante sull'autobus e ad un certo punto vedo salire Joe Levy e lo guardo e ho detto oddio, lo conosco e lo riconosco appunto da un documentario in televisione, e lui era il chief editor di Rolling Stone. Allora per due minuti dentro la mia testa mi dicevo Eden, vai a parlarci, non andare a parlarci. Finalmente mi alzo, mi siedo vicino a lui e gli racconto un po' il mio percorso da studentessa, della mia laurea e della situazione in cui ero in quel momento, e lui mi ha detto guarda, mandami il tuo curriculum, e due settimane dopo io ero dentro agli uffici di Rolling Stone Magazine e ho lavorato per un anno lì. Incredibile. Quindi sì, sì, davvero incredibile. È stata un'esperienza incredibile perché ho seguito il mio istinto proprio come l'ho fatto quando avevo 18 anni ed è andata bene. Il messaggio, l'insegnamento è osate sempre. Eden, com'è proseguita poi la tua carriera? Di cosa ti occupi adesso? Sono una manager per event marketing di ESPN, dove faccio eventi dove magari in 48 ore intratteniamo persone, di personaggi, atleti di tutto il mondo, di tutti i livelli, più di 8.000 persone in 48 ore, oppure eventi come gli X Games ad Aspen, dove in 4 giorni intratteniamo i CMO o i CEO delle più grandi compagnie con cui collaboriamo ad ESPN. E allora Eden, anche a te pongo la stessa domanda che ho rivolto a Micol: quali sono i tuoi consigli pratici a giovani che vogliono cercare un'opportunità nella Grande Mela? Allora, simile a quello che ha detto la Miki, non demordere mai. Una volta che fai questa decisione, non demordere mai, perché anzi penso quello che abbiamo in comune io e la Miki, che a volte più ci si è detto no e più noi andiamo avanti. Quindi credi sempre in te stesso, segui il tuo istinto e non dimenticarti mai chi sei e da dove vieni. Grazie a Eden Ghebreselassie e ancora buon Natale. E domanda di rito per Nicole Bonazzoli: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Ma se potessi riassumerlo in 5 consigli, sicuramente avere le idee ben chiare su quale professione fare, in quale paese trasferirsi, partire determinati, ottimisti e senza nostalgia dei genitori e degli amici, anche se onestamente è dura, fidatevi. Essere consapevoli che ci saranno da affrontare momenti difficili, sconfitte sul lavoro, persone che ti deludono, alcuni sogni che si infrangono, momenti di sconforto e solitudine che veramente vorresti tornare a casa. Però bisogna essere preparati a superare le difficoltà che ci saranno, perché ci saranno. Non arrendersi e ogni 6 mesi fare un bilancio per valutare i pro e i contro. E infine, la cosa più importante, essere positive, come ha detto Eden, apprezzare chi ti è sempre stato accanto e non mollare mai. Infatti il mio motto preferito in inglese è successful people keep moving, they make mistakes but they don't quit. Le persone di successo sono sempre in movimento, sbagliano ma non si arrendono mai. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un economista senior per lo European Stability Mechanism in Lussemburgo, scadenza per i CV 1 gennaio, info su ism.europa.eu. Due posizioni per esperti di sistemi IT all'agenzia EULISA di Strasburgo, in Francia, scadenza per i CV 23 gennaio, info su eulisa.europa.eu. E infine, se state cercando posizioni da PhD in legge, sappiate che l'Università di Copenaghen ne mette diverse a bando, con inizio nel settembre 2017, scadenza per i CV 17 gennaio, info su jura.ku.dk. E attenzione, infine, da gennaio vi proporremo un appuntamento bimensile in collaborazione con l'Agenzia dell'Impiego Comunitaria Eures, con le migliori opportunità del momento per lavorare in Europa. Stay tuned! E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi spazio, come ogni mese, alle lettere che ci inviate quotidianamente alla casella email giovanitalenti@radio24.it. Abbiamo volutamente scelto una missiva che suona come un pugno nello stomaco per questa puntata natalizia. Lo abbiamo fatto apposta, per non dimenticarci dei motivi che spingono ancora tanti, troppi italiani a fare le valigie ed emigrare. Questi motivi ce li ricorda Marco dalla Germania. Ciao Sergio, ho 40 anni e vivo in Germania da più di un anno, perché in Italia sono stato solo sfruttato, preso in giro da capi che volevano tutto senza dare niente, e deluso da un sistema che non sa valorizzare le risorse umane che ha formato e che poi regala all'estero, dove di solito gli italiani che non avevano speranza nella penisola trovano magicamente qualcuno che li apprezzi per quello che valgono. Oppure, anche senza l'aiuto di nessuno, ma solo grazie a un contesto diverso, riescono a trovare la loro strada. Parlo 3 lingue, sono solare, mi piace aiutare e mi faccio il mazzo per fare bene le cose. Nel senso che do il 150% e provo a essere sempre utile e collaborativo. Non lo dico per vantarmi, perché ormai non ho bisogno di sapere chi sono, ma ti posso dire con certezza che so fare bene quello che faccio. Non ci tengo troppo a raccontare la mia triste storia col mio paese, ma mi piacerebbe prendere a schiaffi, metaforicamente, una classe dirigente, politica e docente miope e ignorante. Non solo metaforicamente questa volta. Inoltre, vivendo all'estero, ho capito che in teoria non ci manca niente per essere migliori, ma la voglia e gli esempi. Siamo pieni di gente per bene che predica bene e razzola male, di perbenisti falsi, di raccomandati incapaci, di approfittatori, di persone piccole, di egoisti stupidi, di concorsi truccati, appalti drogati. Ci manca una visione di lungo periodo, una sensazione di comunità, non solo fra nord e sud, ma anche fra vicini di casa o in fila al supermercato, e abbiamo un'onestà malata e selettiva, nel senso che noi possiamo fare quello che vogliamo, ma poi siamo bravissimi a criticare. Buon lavoro! Tristemente esiliato, ma felice. Un motivo per restare.